A bordo campo di Dario Ricci. Da qualche settimana a bordo campo è iniziato un percorso d'avvicinamento verso Londra 2012, beh, perché già sentiamo un po' l'atmosfera olimpica e manca un annetto, non poi tantissimo. Allora, nostro ospite oggi un atleta, un campione che a Londra potrebbe davvero regalarci qualcosa di sorprendente. Viene da Pordenone, classe 1984 e al collo ha già un oro mondiale nella canoa slalom. Benvenuto Daniele Molmenti. Prima di chiamarti subito in causa, Daniele, ti regalo ancora qualche nota di questa splendida canzone di Joe Cocker. Grazie mille. Allora Daniele, spiegaci un po' come nasce questa passione per la canoa. Tu tra l'altro sei di Pordenone e so insomma che lì in zona da voi non mancano i corsi d'acqua dove se si ha questa passione ci si può divertire un bel po', vero? Beh sì, io praticamente a pochi chilometri da casa il Noncello, che è un fiume di Rifer Giva che nasce neanche un chilometro da dove io pratico la canoa. Quindi è stato facile, insomma, la prima estate a Fosa trovare refrigerio con questo sport e da lì poi è nata la passione che mi ha portato a fare per quello che ho fatto, a diventare un professionista, ecco. Ecco, come hai scelto il professionismo? Perché canoa, che molto spesso, soprattutto in Italia, è vista come hobby, e poi però il salto, l'idea di farne una professione è tutt'altra cosa. La forestale praticamente mi ha preso perché ero il giovane più promettente, perché comunque da junior avevo già vinto qualcosa di importante. Ho provato a fare il concorso della forestale perché diciamo in Italia è l'unico modo per poter essere un professionista negli sport considerati tra virgolette minori, no? E appunto quello di entrare nei gruppi sportivi, quindi è stata un po' una scelta dovuta e per fortuna che c'è in Italia, se no non so quanto sarei riuscito ad andare avanti in questo sport. Tu ti dedichi chiaramente allo slalom, che è anche, parere personale, forse la parte anche più spettacolare di questa disciplina, no? Perché c'è un contatto diretto con la natura e con le difficoltà che l'acqua e la natura vi creano. Raccontaci un po' come funzionano le vostre gare, quali sono i pericoli o i rischi o anche gli aspetti tecnici che curate maggiormente. Certo, beh, io intanto faccio il kayak, che praticamente sono seduto in questa imbarcazione sui 3,5 metri. Un po' per farla semplice, io la racconto sempre così: avete presente Antonio Rossi? Bene, io faccio quel kayak lì, però lo faccio sui fiumi dove ci sono onde, salti, riccioli d'acqua, e faccio lo slalom praticamente su delle porte come nello sci. E noi facciamo lo slalom su queste porte, ci sono i rischi, diciamo, sono quelli dell'acqua che si muove, dell'acqua, diciamo, dell'acqua mossa come la chiamiamo noi. Il rischio è proprio quello di trovare l'onda diversa di come ci si aspetta, e quindi bisogna essere bravi a leggere l'acqua per trovare le linee migliori e le linee più veloci. Insomma, leggere l'acqua, che detta a parole è complicato, e poi pure nei fatti non è poi così semplice, no? Perché non tutti lo sanno, ma il fiume ci parla in qualche modo, no? Il fiume nella corsa dell'acqua verso la foce ci lancia delle indicazioni, ci dice quali strade preferenziali seguire, vero? Sì, diciamo che l'acqua è amica e nemica, perché più pratichi praticamente più hai esperienza per poter leggere e trovare le soluzioni migliori, però può sempre capitare durante la gara che gli giri male e l'onda che ti aspettavi magari non c'è, e nel nostro sport praticamente, siccome ci la giochiamo a centesimi spesso e volentieri, anche pochi centimetri di differenza può fare anche un secondo di differenza poi nel tempo, quindi bisogna essere svegli e veloci a cambiare le proprie indicazioni. Eh sì, devo dire che da scadente appassionato di rafting ero rimasto molto colpito, no, nel vedere il fiume parlarmi mentre scendi sul gommone, perché effettivamente chi è capace di individuare questi indizi, un po' come una guida indiana, riesce a leggere rischi, pericoli e corsie preferenziali. Il fiume, l'acqua, che ti dice sulla strada verso Londra 2012? Perché ci arrivi all'ennesima Olimpiade, ma con una responsabilità davvero particolare, perché nel frattempo c'è stata anche una medaglia d'oro mondiale. Beh, diciamo che dopo Pechino praticamente c'è stato un salto di qualità che mi ha portato a dialogare di più con l'acqua. Non è male questa metafora, perché effettivamente il salto di qualità è stato proprio fatto con maggiore esperienza nel conoscere l'acqua e cercare di capire e usarla per poter usare, diciamo, più la forza della natura e meno il braccio, no? In modo da avere più per magari lo sprint finale, ecco. Adesso arriviamo anche a parlare un po' del tracciato, del corso d'acqua che affronterai a Londra, perché so che già hai avuto modo di visionarlo, ma sono un po' incuriosito da questo aspetto del tempo interno, nel senso che per noi comuni mortali Londra è distante circa un annetto. Per un atleta che punta a un podio olimpico, questo tempo esterno coincide con quello interno? Ci pensi tutti i giorni o riesci in qualche modo a distaccarti dall'idea di una gara così importante come quella olimpica? Beh, diciamo che la preparazione per le Olimpiadi è già cominciata da un annetto, per il picco di forma, per come prepararsi fisicamente. Mentalmente bisogna essere bravi a tenerlo sì distante, ma non troppo distante nelle abitudini e nei comportamenti che deve avere un atleta, diciamo, sempre in preparazione di una gara che si è lontana, ma ci si arriva giorno per giorno da 2, 3, 4 anni prima anche. Io, per dirti, le qualificazioni praticamente già sono quest'anno. Quindi già quest'anno devo dare il massimo e fare prestazioni, insomma, diciamo, prestazioni olimpiche, ecco. Comunque già l'aver attirato l'attenzione sullo slalom credo che sia già un importantissimo risultato, no? Proprio perché, come facevi riferimento tu, la canoa che finora conoscevamo era quella di Antonio Rossi e quella di Josefa Idem, che pure a Londra molto molto probabilmente ci sarà e all'inseguimento della sua 8ª Olimpiade. Invece, grazie al tuo successo, abbiamo scoperto anche lo slalom, che è anche un pochino più spettacolare alla fine. Le Olimpiadi, lo slalom è sempre nella top 5 degli sport più visti, è sicuramente anche più spettacolare di tanti altri sport, tra virgolette, più famosi. E in Italia, purtroppo, siccome mancano tanti canali e fiumi per praticarlo, praticamente è un po' meno conosciuto. Sono contento che ho fatto conoscere questo sport, perché è magnifico, sei nella natura, c'è adrenalina, è uno degli sport estremi meno pericolosi, diciamo, no? Poi chi ha fatto rafting, insomma, ha conosciuto, diciamo, i fiumi, quindi sa che l'esperienza in natura porta un'adrenalina importante. Io questa adrenalina ho la fortuna di provarla ogni giorno e poi in gara ancora amplificata per puntare poi le medaglie, quindi fortunato me, ben venga anche magari un bel risultato a Londra per farlo conoscere proprio a tutti quanti, perché poi alla fine proprio le Olimpiadi è il nostro palco più grande. Ecco, allora andiamo un attimo a Londra 2012. So che recentemente, come dicevamo, hai avuto modo di osservare, di studiare il campo di gara, il corso d'acqua su cui vi cimenterete. Ecco, descrivicelo un po' anche dal punto di vista tecnico. Allora intanto bisogna dire, perché magari vengono a canoa, si pensa subito al fiume. Ci sono tante gare nei fiumi, ma le gare olimpiche praticamente vengono fatte su canali artificiali. Cosa vuol dire? Che vengono creati dei bacini artificiali in cemento e degli ostacoli in plastica. Questo perché? Per la sicurezza, perché se uno nuota non si fa male, perché possono portare rafting e bambini a provare questo sport in piena sicurezza. In questo modo però hanno anche potuto costruire cose che la natura difficilmente fa, e questo, ad esempio, a Londra ci sono una serie di, noi li chiamiamo dei buchi, sono dei ritorni d'acqua, c'è una serie, sono quasi 20, che di solito ci sono 3-4, diciamo, quindi a livello tecnico è stato alzato, la portata d'acqua può essere regolata con delle pompe, quindi c'è un impianto tecnologico davvero davvero avanzato lì a Londra. Io abbiamo già provato 3 giorni di allenamenti per capire l'acqua, per studiare poi poi magari una canoa migliore per quel tracciato, quindi c'è stato uno studio importante dietro. Quello di Londra particolarmente ha una grande portata d'acqua che però è lenta perché ci sono tanti ritorni e 2-3 salti davvero impegnativi. È molto fisico perché appunto con l'acqua lenta bisogna spingere, diciamo, un po' di più con le braccia, e questo è un bene perché, diciamo, sono conosciuto nel mondo della canoa per essere uno di quelli un po' meno tecnici e un po' più fisici, quindi è un buon punto a mio vantaggio. Ecco, proprio dal punto di vista della preparazione fisica, come si lavora, come si mette a punto il motore in vista di un appuntamento così importante, ma in generale per affrontare bene questa disciplina? Ma in generale io comincio verso novembre la preparazione, i primi mesi qui, diciamo, in Italia, poi vado a svernare al caldo per i mesi più freddi, gennaio e febbraio, di solito sono in Australia ad allenarmi, marzo rientro e dopo comincia la stagione. La parte fisica soprattutto la faccio in palestra nei mesi appunto invernali, perché siamo tra virgolette lontani dalle gare ed è il momento per costruire appunto il motore. Poi più ci si avvicina alle gare, più bisogna trasformare questa forza costruita in palestra nell'esprimerla poi nella pagaiata. Alla fine la differenza, diciamo un po' semplicemente, è quanto uno è bravo ad esprimere i chili che sposta in palestra nella pagaia, quindi una certa sensibilità. Poi ogni acqua ha le sue caratteristiche, bisogna essere capaci di leggere appunto l'acqua, ci sono tante cose, tante piccole cose che poi fanno il risultato. Bene, intanto quello che noi ti auguriamo è soprattutto quello di coronare il sogno olimpico, ma l'in bocca al lupo chiaramente vale anche e soprattutto per quando lascerai la pagaia e continuerai a costruire la tua carriera e la tua vita. Beh, crepi il lupo di vecchiaia perché sono un forestale, grazie mille. A bordo campo. Lega Pro e Serie B, le gestiamo da qui, porta i soldi con te, garantisce Pepe, se vuoi l'over vedrai quanti gol segnerai, anche in aura tu puoi puntare di scommesse, giochi, scandali del calcio, inevitabile l'argomento di questa puntata di A Bordo Campo. E beh, allora vogliamo sentire uno dei rappresentanti, quantomeno di uno degli anelli decisivi di questa catena delle scommesse intorno allo sport. Benvenuto a Bordo Campo a Massimo Passamonti, responsabile dell'area giochi di Confindustria. Grazie, bentrovati a tutti voi. Dottor Passamonti, perché la chiamiamo in causa? Perché in virtù del suo ruolo di responsabile dell'area giochi di Confindustria, lei rappresenta un po' tutti quelli che sono gli operatori legali che agiscono sul mercato delle scommesse sportive. Ecco, un dato che mi sembra importante sottolineare in quello che pure è lo scandalo e che è quasi paradossale evidenziarlo come dato positivo, è che, paradosso appunto, il sistema di controllo finora ha funzionato, perché altrimenti di questa vicenda non se ne parlerebbe. Assolutamente sì. Mi spiace che questo aspetto, appunto, che può sembrare paradossale, non sia stato finora adeguatamente sottolineato, ma è proprio così, cioè è la conferma che il sistema di raccolta delle scommesse, del gioco delle scommesse in Italia, fondato sulla concessione, è un sistema che funziona e che soprattutto è coerente con le esigenze di tutela dello scommettitore, attraverso tutta una serie di regole, di adempimenti cui sono sottoposti i concessionari delegati alla raccolta delle scommesse, che impediscono di fatto qualsiasi forma di deviazione rispetto ad un corretto adempimento di questa importante funzione, che è delegata appunto a raccogliere la volontà dei giocatori e degli scommettitori di fare la loro scommessa e di fare la loro puntatina. Parliamo di concessionari legali perché? Perché in realtà, come sappiamo bene dalla cronaca di questi giorni, c'è anche una rete di operatori non autorizzati che pure è presente in Italia, vero?